Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, nel giorno in cui la cronaca parlamentare è assolutamente ricca. La Camera, come vi hanno già raccontato i nostri GR, infatti ha confermato la fiducia al governo Letta sul decreto del fare, il decreto di carattere economico anche più importante di quelli visti dal governo Letta, del fare, dicevo, con 427 sì e 167 no. C'è ostruzionismo da parte delle opposizioni, 251 infatti gli ordini del giorno sul decreto che sono stati presentati dal Movimento 5 Stelle, SEL e Lega. E, tra l'altro, il timore della maggioranza del governo è che la discussione e il voto dopo la fiducia richiedano molte ore e si rischia di arrivare a notte fonda, con una conseguente appunto seduta a fiume della Camera. Ma ci sono anche novità sul finanziamento ai partiti, perché dopo che il Premier Letta ha detto nessun passo indietro sullo stop al finanziamento ai partiti, qui vi aggiorneremo poi nella seconda ora, sta slittando anche l'appuntamento di carattere parlamentare, ma sembrerebbe nel decreto del fare essere saltato il tetto famoso ai compensi dei top manager che guidano le società controllate dallo Stato. Perché? Perché ricorderete forse che lo scorso agosto il governo Monti aveva stabilito che i top manager di società guidate, società a partecipazione statale, non avrebbero potuto guadagnare più del primo presidente della Corte di Cassazione, in sostanza un po' meno di 300.000 euro l'anno. La norma faceva salvi gli stipendi però già in essere milionari, quello di Massimo Sarmi, 1.500.000 di euro le Poste Italiane, o gli 800.000 passa euro di Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, senza contare ANAS, RAI e le altre controllate dal Tesoro. Nel decreto del fare, su cui appunto il governo ha posto la fiducia, era stata inserita in commissione anche una norma per allargare questo tetto alle Poste, appunto alle Ferrovie, all'ANAS. Solo che nel passaggio dalla commissione all'aula è comparso un non. Quindi non c'è questo limite per queste società controllate, e quindi il limite si applica solo alle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica. Alla fine è come se la frase non fosse stata aggiunta, e anche questo non è un segnale così entusiasmante, a mio avviso. O vale per tutti, oppure lasciamo stare e lasciamo che i manager delle società pubbliche vengano pagati sul mercato, sulla base di quello che è la valutazione di mercato. Perché obiettivamente in questo modo si crea un po' di, non sperequazione, ma di differenza, non si capisce perché alcuni sì e altri no. Di questo, dicevo, parleremo nella seconda ora del programma, anche perché Letta è intervenuto molto oggi sul tema fiscale in visita all'Agenzia delle Entrate. Per quello che riguarda invece gli altri temi della puntata, apriremo con Fondiere Assai, è il giorno infatti di Giulia Ligresti, interrogata alla procura in procura a Torino, attualmente detenuta nel carcere di Vercelli, è arrivata in procura poco prima delle 10 e appunto per sottoporsi all'interrogatorio di Vittorio Nessi e Marco Gianoglio, i magistrati che coordinano l'inchiesta. L'accusa, come ricorderete, di falso in bilancio con un conseguente danno ai risparmiatori per oltre 300 milioni di euro. Dalle carte emergerebbe anche che Giulia Ligresti, che è stata anche vicepresidente di Fondiere Sai, avrebbe concorso con i familiari su di un piano materiale e morale, cito testualmente, quale effettiva istigatrice alle condotte di falso contestate, dalla stessa in ogni caso avallate senza remora alcuna. E che vuol dire? Che potrebbe essere sia effettivamente la persona che ha istigato questi comportamenti, queste condotte di falso in bilancio, e comunque le ha avallate senza mai opporvi. Sì, questa è l'accusa. Ricordo che ieri sono stati interrogati Fausto Marchionni, l'ex amministratore delegato in carica dal 2003 al 2011, e Ionella Ligresti, ex presidente di Fondiare Assai. Faremo il punto, per ora nessuno ha ammesso nulla, L'inchiesta comunque si sta anche allargando perché i magistrati vogliono capire chi è stato a truccare le poste, cioè chi ha ideato lo stratagemma, i famosi premi che apparivano e scomparivano a seconda delle convenienze, quindi posticipando di oltre 500 milioni di euro quelle che sarebbero state perdite. Questa mattina la Guardia di Finanza ha consegnato 3 nuovi avvisi di garanzia e sotto esame c'è anche l'operato del collegio sindacale, che il collegio sindacale dovrebbe vigilare, non si capisce che cosa abbia vigilato, sul bilancio 2010. I destinatari sono stati il presidente e i due membri, quindi Benito Giovanni Marino, Marco Spadaccini e Antonio D'Ambrosio. Il totale a questo punto degli indagati nella vicenda Fondiera SAI è di 16 persone fisiche e 2 giuridiche. Di questo ci occuperemo e poi parleremo anche di borsa. Perché? Perché oggi, perché ce ne occupiamo sempre in primo luogo, ma oggi la borsa fa più 1,13% a Milano, più 1% a Parigi, più 0,50% a Francoforte, più 0,13% a Londra, con un euro a quota 1,3235. Tra i titoli però oggi sono ben messi tutti i bancari: UbiBanca più 3,90, UniCredit più 3,20, Popolare Emilia Romagna più 3,20, Pop Milano più 2,80, Intesa San Paolo più 2%, Mediobanca più 1,90. Bene anche Fondiera SAI, che da quando sono partiti gli arresti, lo dico come dato di cronaca, il titolo si è mosso sempre molto bene. Chi oggi invece va male è un po' il settore lusso, ma soprattutto Tod's, meno 3,86%, di nuovo in calo, non pesante come ieri, quando fu sospesa per eccesso di ribasso, ma Steam Microelectronics perde anche oggi il 3%, Saipem il 2,20, Autogrill il 2, Snam, Rete Gas l'1,60%, Assando STS perde l'1,1%. Il numero per i vostri SMS come sempre è 349-238-6666 e poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. Le notizie in breve. Dati che riguardano il nostro export a giugno nei paesi fuori dall'Europa è in calo dell'1,9% rispetto a maggio e anche del 3% rispetto al 2012. In realtà il calo più forte si ha in India, meno 19%, e in Giappone meno 10%, ma anche negli Stati Uniti meno 7%. Tiene la Russia più 1,7%, molto bene la Cina più 15%, è invariato il dato sui paesi produttori di petrolio, i paesi dell'OPEC. Ancora, ma perché polemizziamo subito? Perché dice che io do il numero degli SMS e poi non li leggo? Li leggo tantissimi gli SMS. Ovviamente leggo più le critiche che i complimenti. Ci mancherebbe. Comunque andiamo avanti con i dati e con le notizie di oggi. Per quello che riguarda il commercio e le vendite al dettaglio nel mese di maggio c'è stato un leggerissimo aumento sul mese di aprile, più 0,1%, ma un calo dell'1,1% su base annua, e questo vuol dire di fatto l'undicesimo calo consecutivo nelle vendite al dettaglio, che sono uno degli indicatori principali per misurare l'andamento dei consumi. Tra l'altro calano soprattutto le vendite di prodotti non alimentari, meno 1,8%, tengono invece quelli alimentari più 0,1% rispetto al mese precedente. E tra i settori a maggio ha recuperato solo la grande distribuzione, tutti in calo gli altri, sia gli iper e discount e anche soprattutto il commercio più al dettaglio, quindi il singolo negoziante. L'unico, ripeto, canale distributivo che ha segnato un più 0,3% è quello della grande distribuzione. Veniamo al tema che poi approfondiremo nella seconda ora del programma: la fiducia del governo Letta sul decreto del fare, segnale molto importante secondo il Presidente del Consiglio, che poi in visita all'Agenzia delle Entrate ha detto Se ci si chiede perché l'Italia è un paese poco competitivo, rispondo perché l'economia in nero è così quantitativamente importante, distorce la concorrenza e crea inefficienza. Allora, sul fatto che l'Italia sia poco competitiva, solo per, cioè, che l'economia in nero non sia un elemento di competitività è verissimo, perché va a danno degli imprenditori onesti che le tasse le pagano. Che sia solo questo o questo il principale motivo della nostra bassa competitività, magari io qualche altro elemento ce l'avrei, per esempio una burocrazia che non ha eguali in Europa, con tempi tripli o quadrupli rispetto agli altri paesi europei, per, l'abbiamo raccontato molte volte, per mettere un'insegna, per avere l'autorizzazione per un capannone, per qualunque cosa, tempi doppi e tripli rispetto anche a Francia e Spagna e non rispetto alla Svezia. E poi aggiungerei anche il fatto, per esempio, che l'Italia è poco competitiva anche perché ha una macchina pubblica pesante e poco competitiva. Forse gli imprenditori sono poco assistiti rispetto ai colleghi francesi. Forse abbiamo un sistema bancario che li ha poco seguiti, si è preoccupato delle volte di altre operazioni, più di sistema, più da salotto. E infine aggiungerei anche che siamo poco competitivi perché abbiamo un peso fiscale, caro Primo Ministro, che non ha eguali nel resto d'Europa. È vero che abbiamo un nero, un'economia sommersa, un'evasione che non ha eguali nel resto d'Europa, abbiamo però anche una pressione fiscale che non ha eguali nel resto d'Europa. E voglio dire, l'IRAP non è una tassa che aiuti le imprese a assumere e a competere, più tutti gli altri oneri balzelli, secondo me. Detto questo, secondo il Presidente del Consiglio Enrico Letta, le tasse nel nostro paese sono troppo alte perché non tutti le pagano. Essendo assolutamente convinti di questi, che nel nostro paese le tasse sono troppo alte perché non tutti pagano le tasse, e allo stesso tempo sapendo che il nostro impegno è a usare tutti i soldi che verranno dalla lotta all'evasione fiscale per abbassare la pressione fiscale, che è troppo alta, ma è troppo alta proprio per questa asimmetria. E questo impegno quindi alla riduzione dell'evasione fiscale, per consentirci di ridurre le tasse, è l'unico modo con il quale possiamo rendere il nostro paese di nuovo equilibrato dal punto di vista della competitività e in grado di affrontare i suoi problemi con una logica di solidarietà. Allora, anche qui mi permetta il Premier Enrico Letta, è verissimo che il fatto che ci sia un'evasione record, soprattutto la grande evasione, volete sapere Dolce Gabbana? Ma cosa volete che vi dica? Oh, sì, può essere che l'assessore abbia sbagliato, certo, la frase non era delle più felici. I due hanno evaso, sono evasori, si arrabbiano tanto, non siano così permalosi delle volte, vabbè. No, anche perché allora questa cosa ce l'ho proprio qua e la dico. È anni che giustamente facciamo una battaglia sull'evasione e abbiamo gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori che si lamentano giustamente di non riuscire a stare in vita, o delle mail devastanti in questo periodo di quello che devono pagare, di come si comporta Equitalia, l'Agenzia delle Entrate, e abbiamo detto spesso attenzione a prendersela solo con l'artigiano o col piccolo professionista, con gli studi di settore. Andiamo a vedere anche la grande evasione. Ora, una volta che la grande evasione viene beccata, io non è che abbia tutto questo tipo di così sensibilità per Dolce Gabbana. Hanno ragione, se l'assessore li ha offesi fanno bene a farlo notare, però ammettano anche che, cioè, hanno un piccolo problema col fisco italiano. O dobbiamo solo bastonare sempre l'artigiano, il piccolo professionista, così, e poi invece i grandi nomi andiamo a coccolarli, no? Magari perché investono molto in pubblicità. No, chiedo. Detto questo, al Premier Letta forse vale la pena ricordare che le tasse sono alte perché non tutti le pagano, perché abbiamo un'evasione stellare, ma anche perché in questo paese non si riesce mai a ridurre quella che è la spesa pubblica in senso serio, e non con qualche taglio che fa più danni che altro. Quindi quello che è il costo della macchina pubblica, il debito è al 130% del PIL, non si capisce perché, ma insomma è. Allora, non diciamo che è solo per questo motivo, sennò c'è il rischio che uno va all'Agenzia delle Entrate e dice che è colpa dell'evasione, va dai commercianti e dice che il fisco è troppo duro. Abbiamo una buona parola per tutti. Eletta ha aggiunto: occorre fare una lotta senza quartiere ai paradisi fiscali. Siamo d'accordissimo. Il clima è cambiato. Gli italiani che hanno portato i soldi all'estero devono sapere che il clima è cambiato e che conviene anche a loro riportare i soldi in Italia, perché la situazione internazionale non consente più di avere le coperture che hanno avuto finora. Non so se si riferisse al mitico scudo fiscale dell'allora ministro Tremonti, che con un 5% di tassazione permise il rientro di oltre 100 miliardi di capitali. Quella è grande evasione, eh? E poi Letta ha anche detto: attenzione però, basta facci l'oneria nell'uso delle risorse pubbliche. Le risorse pubbliche vengono spesso utilizzate con facci l'oneria senza verificare il rapporto tra le stesse e gli utilizzi, che non possono essere sballati o approvati solo perché c'è qualche lobby che vince alle 2 del mattino di fronte ad una commissione stanca. Sì, perché poi sappiamo che gli emendamenti peggiori arrivano sempre di notte. Vorrei chiudere però, poi arriviamo anche ai manager pubblici e agli ultimi aggiornamenti, se è vero o no che è saltato il tetto ai compensi fissati dal governo Monti. Però vorrei chiudere con una notizia prima di passare alla Fondiaria SAI, e un po' si lega, perché è finalmente arrivato il conto per il generale della Guardia di Finanza Roberto Speciale. Poi fu anche deputato del PDL, ve lo ricorderete, la Corte dei Conti ha preso un'indagine nei suoi confronti per tutto un insieme di spese, tra cui la più famosa fu quella famosa consegna nel 2005 di pesce fresco nel luogo dove era in villeggiatura in Trentino, utilizzando un aereo militare. No, per le spigole, le famose spigole del Trentino, una presa al mare, portate al generale Roberto Speciale. Allora, sapete la fattura che ha emesso la Corte dei Conti? Per 4 spigole dovrà pagare 200.000 euro. Ah. Era a Passorolle, giustamente. Allora, sono spigole un po' care. A mio avviso, col senno di poi, Speciale faceva prima affittarsi un taxi, andare al mare e mangiarsi le spigole e tornare indietro, perché con 200.000 euro secondo me dentro ci stava. E comunque anche in Trentino qualche ristorante che fa il pesce lo si può trovare, ottimi stellati ristoranti Michelin con 200.000 euro, hai voglia. Ma tant'è, 4 spigole, 200.000 euro, la modica cifra di 50.000 euro a spigola, manco se la fai pescare al momento, ti costa così cara. Vabbè, no, ma questa ho fatto fare l'applauso perché è una buona notizia. Siccome è tutto accertato, è una buona notizia. Non esiste che un generale della Guardia di Finanza, non me ne frega nulla che poi fosse deputato del PDL, si faccia portare con un aereo militare 4 spigole in montagna perché deve mangiare, ma neanche nei peggiori stati africani arriva una cosa del genere. Mi querelli se vuole, intanto paghi 200.000 euro ai cittadini italiani, perché quell'aereo lì l'abbiamo pagato noi, la benzina, i piloti e tutto il resto. Magari, non voglio nemmeno aggiungere, poteva servire per qualcos'altro di più urgente, magari, più che portare 4 spigole al generale della Guardia di Finanza in montagna e mangiasse la polenta e il capriolo che vedeva che risparmiava anche lui. Adesso basta, Fondiaria SAI, il giorno di Giulia Ligresti, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, l'interrogatorio di Giulio Ligresti. Vedo molti messaggi che vogliono sapere invece di notizie di carattere europeo. Allora, dunque, l'Europa sostanzialmente ha fatto oggi ha preso alcune iniziative. Una riguarda i costi extra per le carte di credito. Lo dico perché è una notizia molto importante in realtà. Basta costi aggiuntivi che il cliente è costretto a pagare quando usa le carte di credito. È un caso che riguarda soprattutto l'acquisto di biglietti aerei. Con una direttiva della Commissione Europea oggi viene proposto di tagliare le tariffe interbancarie, quindi i costi che le banche si applicano a vicenda per le transazioni con carte e bancomat. In questo modo si abbasseranno i costi anche per i consumatori. Costi sulle carte di credito che non davano molte preoccupazioni alla famiglia Ligresti. Poi racconto magari anche con massimo rispetto. Cioè, uno se è bravo nella vita e riesce a guadagnare tanto, ha tutta la nostra ammirazione. Spesso invitiamo imprenditori di successo. Bisogna capire se sei di successo o se i soldi invece li hai stornati per essere buoni. Vedo molti messaggi sulle spigole. Comunque, perché in realtà, da quella che è l'accusa dell'intera vicenda Fondiaria Assai, l'accusa è di avere portato almeno 235 milioni da Fondiaria Assai nella società che invece gestiva la Premafin, che gestiva la sua famiglia Ligresti, che controllava Fondiaria Assai. Quindi l'accusa è di avere oltretutto portato il valore in alto verso la controllante, oltre che di aver caricato Fondiaria Assai di operazioni strane tipo l'acquisto di Ato Hotels e tutta la parte delle remunerazioni. Poi ci arriveremo, ma intanto Giulia Ligresti interrogata. Ieri interrogato Fausto Marchionni e Ionella Ligresti. Fausto Marchionni è il manager che si vide attribuire pur avendo firmato un bilancio con 1 miliardo di perdite e 1,5 miliardi di debiti, Marchionni, quando uscì, si è preso 10,5 milioni di euro di buonuscita. Roberto Galullo, del Sole 24 Ore, buonasera Roberto. Buonasera. Come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Vedo che ti diverti con le spigole. Beh, ma la conosci bene anche tu quella vicenda, sì, sì, delle spigole. È scandalosa. Adesso intanto vediamo che speciale paghi 200.000 euro al Corte dei Conti. Se li paga, io spero di sì, perché è un cittadino come altri, e anche se non li dovesse pagare e dovesse fare ricorso, farsi portare 4 spigole con l'aereo non si può sentire. Detto questo, magari non vive, ma o l'aereo lo pilotavano loro, questa è un'altra possibilità, da che si capisce anche il costo. Senti, ieri interrogati Marchionni e Ionella Ligresti, mi sembra che la linea sia il silenzio. La Guardia di Finanza oggi ha consegnato 3 nuovi avvisi di garanzia, sotto esame anche l'operato del collegio sindacale, quello che insomma doveva vigilare sul bilancio del 2010. E quindi avvisi di garanzia al presidente e ai 2 membri, Benito Giovanni Marino, Marco Spadaccini e Antonio D'Ambrosio. 16 persone indagate. Che cosa è uscito? Se è uscito qualcosa dall'interrogatorio di Giulia Ligresti. E tra l'altro, dalle carte dell'inchiesta, i magistrati dicono: Giulia Ligresti ha concorso con i familiari su un piano materiale e morale, quale effettiva istigatrice alle condotte di falso contestate dalla stessa, in ogni caso avallate senza remora alcuna. Roberto. Ma guarda, qui a essere buoni nel giudizio possiamo parlare tranquillamente di un muro contro muro. L'accusa, le sue carte da giocare, le sta mettendo sul tavolo ogni giorno con gli interrogatori che sta conducendo il PM Marco Giannoglio qui a Torino. La difesa a parole dice di, la difesa di tutti gli indagati, intendo dire, a parole dice di essere estremamente collaborativa, ma così come ho scritto anche oggi sul Sole 24 Ore, un dato è certo, nessuno ha ammesso colpe e responsabilità. E questo è abbastanza strano, anche perché dopo essere finita sotto la lente di ingrandimento della procura e degli investigatori la catena di comando, adesso è finita anche la catena di controllo. Tu prima facevi riferimento appunto al collegio sindacale, quindi diciamo che è proprio come dire, tutto il vertice e anche a seguire poi nella filiera a scendere delle persone che avevano ruoli di responsabilità e vigilanza ad essere sotto la lente di ingrandimento. La sensazione è che non sia finita qui, perché questo muro contro muro ovviamente non può produrre silenzio, ma dovrà necessariamente produrre atti e fatti. Tanto ecco, scusami che, Roberto, io non capisco una cosa, per carità, non capisco molte cose, però in questo caso, visto che qui stiamo parlando non di ipotesi, qui ci sono dei bilanci, c'è un gruppo che ha perso 1 miliardo, c'è stato un giochetto fatto sui 500 e passa milioni di premi da accantonare, è troppo complicato spiegare a tutte, apparivano e scomparivano a seconda delle comodità, per dare un'impressione che il gruppo fosse messo meglio di quello che non era, e c'è l'accusa di avere sottratto 230 milioni nel corso degli anni portandoli a Premafin, oltre che la politica, diciamo, delle remunerazioni interne. Che senso può avere una linea del silenzio? Ma guarda, dobbiamo tenere conto che questa è un'indagine molto complessa e siamo alle schermaglie iniziali, quindi è logico questo atteggiamento da parte della difesa, di tutti gli indagati, di attesa. Poi leggendo l'ordinanza e parlando con i legali degli indagati, la linea difensiva è abbastanza chiara nel momento stesso in cui, ad esempio, un Marchionni o un Erbetta, prendiamo Erbetta, ex amministratore delegato di Fonsai, dice: io ho firmato il bilancio 2010 che è stato approvato il 23 marzo 2011, ma ero arrivato in Fonsai a ricoprire quel ruolo appena un mese e mezzo prima. Ergo, ho firmato il bilancio perché ho avuto tutte le garanzie di correttezza contabile dalla filiera che stava sopra di me. Quindi io ho firmato quel bilancio, ma non ho alcuna responsabilità in quel falso in bilancio. Cioè, però ho capito, Marchionni era lì da anni però. Ma infatti questa è la linea dell'accusa, che dicono: nonostante ci siano stati ruoli ricoperti successivamente negli anni con questo scambio di ruolo tra Erbetta e Marchionni, è vero anche che facevano parte del CDA di Milano Assicurazioni, del CDA di Fondea Sai, che in precedenza avevano ricoperto altri ruoli, ergo questa catena di controllo ben la conoscevano e quindi hanno firmato ben sapendo cosa c'era sotto quei bilanci. Ma questa è l'accusa, la difesa dice esattamente il contrario. Voglio dire, a parte il fatto che per la legge che tu firmi e poi ti accorgi, perché nella buona fede o cattiva fede chi se ne frega, hai firmato, cioè voglio dire, a questo punto ti sei preso una responsabilità, infatti, se iniziamo così allora qua paga solo il fattorino a Fondiera Sai, no? Perché se tutti qua, io ho firmato, sì, guadagniamo un botto di soldi, perché Marchionni se ne va con 10 milioni e mezzo di euro di buona uscita, allora no, salaria. Sai, emotivamente noi possiamo sposare tutte le linee che vogliamo, certo. Però dal punto di vista cronacistico, dal punto di vista del racconto, questo è quello che sta succedendo. Ad esempio domani sul Sole 24 Ore leggerete da questo punto di vista una piccola chicca che la dice lunga sul gioco delle parti. Quale? Però non posso anticiparla, non posso anticiparla. Quale? Non si può. Un'unica grande famiglia. Figurati. Resta con noi però, Roberto. Non sentisse nessuno, te la direi, ma sento. Purtroppo ci sono anche gli altri che sentono. Allora, Giulia Ligresti, gli immobili, casa in via Vincenzo Monti a Milano di Fondiera Sai, ancora senza contratto, uno staff di 8 persone, alcune pagate da Prema fino a Milano Assicurazioni, ma che lavoravano tutte per Gilli, la società personale di Giulia Ligresti, altri benefit 5 auto e poi Paolo Ligresti 9 auto, 8 persone di cui 2 autisti, la stessa cosa vale anche per Ionella Ligresti, 6 persone tra cui 2 segretarie, un autista e l'addetta al supporto linguistico, che non so che cosa sia esattamente. 6 auto, l'aereo privato, che usava, secondo il manager Alberto Alderisio, aveva manie di megalomanie incontrollabili, risulta da un'intercettazione. E l'estra presidente e vicepresidente di Fondiera Sai, Giulia Ligresti, invece vicepresidente di Fondiera Sai, poi la famosa festa al Tanca Village, il villaggio gestito da Salvatore Ligresti, insomma, diverso trattamento ai familiari, ai clienti, ai suoi amici, insomma, vabbè, quello voglio dire, a un certo momento chi se ne frega. Però Roberto Gallullo, mi sembra che l'inchiesta, oltre agli imputati più chiari, la famiglia Ligresti nel suo completo, si stia allargando anche il collegio di vigilanza, forse i revisori contabili. Io sento odore di Parmalat qui dentro. Guarda, anticipare, giocare d'anticipo è bello ma è anche rischioso. Io non so se questo accadrà, rimaniamo ai fatti, tutta la famiglia e il collegio sindacale, quindi i sindaci tutti tranne quello che se ne andò nel 2009, quindi nulla aveva a che fare con ciò che accadde dopo. Però se rimaniamo sempre ai fatti, la notizia di ieri è che ad esempio ci sono stati alcuni azionisti di minoranza e anche l'Adustes che li rappresenta in parte, che hanno chiesto addirittura il commissariamento di Fondiaria Sai per evitare effetti disastrosi su Unipol, che oramai ha acquisito appunto la compagnia di assicurazione. Quindi l'inchiesta è secondo me assolutamente destinata ad essere allargata ed essere ampliata. E in quali direzioni non si sa. Io ieri o oggi, adesso nemmeno più ricordo perché vado al ritmo di 4-5 articoli al giorno tra Sole Online e Quotidiano, ho scritto che per il momento, estate 2013, gli indagati finiscono qui con gli ultimi tre di ieri, per il momento novità non ce ne saranno, ma ciò non toglie che, visto che gli interrogatori proseguiranno ancora tutta la prossima settimana, possano esserci nuovi indagati di cui probabilmente poi si verrà a sapere alla riapertura del tribunale, dell'attività giudiziaria normale che solitamente è a settembre. Per il momento però finisce qui. Gli azionisti di minoranza credo che abbiano anche chiamato in causa il ruolo della Consob, ma qui gli attori chiamati in causa sono tantissimi. Consob, dov'era la Consob già dall'operazione fondiaria? E sai, perché poi tu ricorderai bene che tempo dopo, quando ormai non è più possibile fare nulla, l'antitrust scopre che bisognava lanciare un'OPA. La famiglia Ligresti è già lì la Consob. Vabbè, ma io non voglio dire nulla perché a quel tempo il presidente era Lamberto Cardia. Ho fatto solo notare come coincidenza che il figlio Marco Cardia è inquilino di un appartamento ai Parioli in un prestigioso palazzo di proprietà dei Ligresti. E invece è diverso il caso di Andrea Giannini, che è figlio del presidente dell'ISVAP, allora l'ISVAP, autorità di vigilanza, Giancarlo, ha lavorato a Fondiere 7 dal 2005-2006, adesso l'ex presidente è indagato dalla Procura di Milano. Mi dicevi, Roberto, scusa? No, ti dicevo che oggi si stava parlando con alcuni colleghi del Sole, si stava riflettendo proprio su questo, che se non fosse stato, correggimi se sbaglio, perché tu sai che io affronto questi temi con grandissima passione, ma dimmi, la finanza non è il mio mondo, ma addirittura nel 2011 mi pare che ci fu il primo grido d'allarme lanciato da un fondo straniero su Fondiaria SAI. No, ma poi c'è tutto il rapporto del commissario ad ACTA, Matteo Caratozzo. Ma attenzione, quello che si è due anni dopo, caro Sebastiano. Sì, certo. Se non ci fosse stato un fondo nel 2011 che alzava la voce, e poi a seguire, anche dopo la relazione del commissario ad ACTA, relazione di responsabilità civile, probabilmente oggi saremmo ancora qui a chiederci se i bilanci e se il gruppo Fondiaria SAI è stato o meno gestito in un modo piuttosto che un altro. Quindi purtroppo queste sono cose che fanno parte di storie che abbiamo già visto, come dicevi giustamente tu prima. Ahimè sì. A quel punto la domanda che uno si può fare, lasciamo stare la famiglia Ligresti per un secondo, è che cosa ci fanno a che cosa servono? Perché ci sono certe funzioni? Perché il collegio sindacale è una cosa importante, i revisori contabili sono importanti, chi si occupa della gestione interna, se poi gli amministratori delegati dicono io ho firmato ma era da poco che ero lì, ho creduto sulla buona fede che i conti fossero giusti, a me ricordo un po' l'utilità di una figura mitica che inventò Antonio Albanese, il comico, in azienda, tutti noi conosciamo qualcuno così, che è il famoso analista delle gestioni integrate, perché voglio dire, se tu sei lì a mettere una firma e non sai bene a che cosa servi, ricordi molto l'analista delle gestioni integrate. Ce l'abbiamo? Facciamo sentire. Io lavoro molto, io sono un grosso professionista, sono un dirigente, faccio l'analista delle gestioni integrate. Voi mi chiederete che cos'è l'analisi delle gestioni integrate? Non lo so. Credo di essere stato uno dei primi in Italia a dare una figura professionale agli analisti delle gestioni integrate. Prima era facile credere che bastasse un normale management esperto in dinamiche mirate, ma tra le dinamiche mirate e le gestioni integrate, voi mi insegnate, c'è una differenza enorme. Al punto che posso affermare questo: non esiste oggi qualità totale senza l'analisi delle gestioni integrate. Che cos'è l'analisi delle gestioni integrate? Non lo so. Certo so che l'analisi delle gestioni integrate è tutto ciò che si occupa di flussi compensativi tra comparti omogenei e comparti disomogenei, dalle garanzie di ricavo agli scompensi produttivi. Sì, questo lo so, ma non so che lavoro è, ma lo faccio. E sia ben chiaro, l'azienda ci segue. Siamo il secondo gruppo in Europa e il quinto gruppo nel mondo a non sapere che lavoro fa. Ma lo facciamo bene, guadagniamo anche molto bene. Abbiamo anche uno psicologo per capire che lavoro facciamo. E poi i vantaggi in azienda. Le donne, Piacere Cantoni, analisi delle gestioni integrate. Piacere Cinzia, garanzie di ricavo. Piacere Patrizia, scompensi produttivi. Piacere Beatrice, target di penetrazione. Tu Beatrice sai che lavoro fai? No, nemmeno io. Vabbè che l'amore è un mistero, però tra le tre ho scelto una quarta. Paloma, Troia, lei sa che lavoro fa. Roberto Galullo, ci scherziamo, ma è un po' così. Qua nessuno sapeva cosa stava facendo. Tu stai ancora ridendo, lo so, perché non te l'aspettavi. No, ma Albanese è uno dei più grandi filosofi di Nezio. No, dico, questi non sapevano che lavoro facevano, firmavano, ma io. Allora, che ci stai a fare? Il revisore contabile, il collegio sindacale di Fondiera Sacca. Il problema ma è bellissimo questo. Ma sì, ma è bellissimo, ma voglio dire, io non mi scandalizzo, lo trovo assolutamente normale, perché il sistema italiano, il sistema di vita italiano, il sistema delle società italiane, il sistema industriale italiano societario è fatto in questo modo, è fatto con una serie di matriosche in cui tu apri e sotto le trovi un'altra e così vai all'infinito, quindi c'è uno scaricamento di responsabilità in cui alla fine c'è sempre qualcuno sopra di te quando torni indietro che è responsabile delle tue azioni. E vedrai che alla fine la colpa è del fattorino di Fondiera Sacca. Io ho un mio sospetto molto forte, il buco l'ha creato il fattorino di Fondiera Sacca. Oddio, c'è qualche purista che dice oh, focus economia, non è più focus economia. Ascoltate ragazzi, stiamo parlando di come si crea un buco di 1.400.000.000 di debiti in un gruppo assicurativo carasano come Fondiera Sacca. Secondo me Albanese farà anche ridere, ma ci azzecca parecchio quando tu senti certi ragionamenti, certi discorsi. Detto questo, la borsa più 1,26% Milano, più 1% Parigi, più 0,80% Francoforte, più 0,35% Londra. Bene oggi tutti i titoli bancari, a partire da UbiBanca più 3,93%, Fondiaria più 3,85%, Popolare Emilia Romagna più 3,5%, Unicredit più 3%, Pop Milano più 2,60%, Azimut pure. Guido Maurino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo proprio da Fondiaria Sacca, che insomma da quando è partita l'inchiesta, cioè anzi gli arresti della famiglia Ligresti, ha guadagnato il 10%. Sì, ha guadagnato oltre il 10% da quando sono partiti questi arresti la scorsa settimana, anche oggi ha guadagnato il 3,85%. Non ci sono notizie di mercato in senso stretto, però evidentemente si guarda un pochettino all'evoluzione della vicenda giudiziaria della famiglia Ligresti. Anche oggi è stata una giornata di interrogatori, in particolare ha risposto ai PM di Torino Giulia Ligresti. Ancora non sappiamo bene cosa sia emerso da questa serie di interrogatori degli ultimi giorni, però a giudicare dall'andamento del titolo, insomma, un'attenzione del mercato c'è per quanto sta avvenendo. Ancora, dicevo, i bancari, soprattutto la Popolare Emilia Romagna e UbiBanca oggi in evidenza. Sulla Popolare Emilia Romagna c'è una notizia che riguarda la Banca d'Italia. Sì, in particolare ieri c'è stata la notizia su UbiBanca che la Banca d'Italia ha approvato i modelli interni per il calcolo del merito di creditizio delle imprese a cui vengono concessi i crediti. Si tratta in realtà di una tecnicalità, ma consente a UBI di poter migliorare la sua solidità patrimoniale, in particolare il core tier 1, di 60-80 punti base. La stessa autorizzazione concessa ieri a UbiBanca per gli analisti potrebbe arrivare anche per altri istituti, in particolare per la Popolare dell'Emilia Romagna, che oggi è stata la seconda banca migliore a Piazza Affari, guadagnando il 3,5%. Sul fronte opposto invece c'è Tod's, che ha corso molto nell'ultimo periodo, con un abbrivio dovuto anche all'operazione sull'Oropiana, che ha rivitalizzato tra virgolette tutto il settore del lusso italiano. Però oggi perde il 3,94% a 119 euro per azione. Sì, diciamo che si tratta soprattutto di prese di beneficio in questo caso, perché proprio per l'operazione Loropiana il titolo aveva guadagnato nelle ultime settimane il 18%, quindi un rialzo molto consistente realizzato nell'ultimo mese. Oggi gli operatori hanno iniziato a considerare il fatto che forse a questi prezzi il titolo inizia a essere caro, per cui sono scattate un po' di prese di beneficio. Ancora Saipem invece è molto nervosa Saipem queste settimane, meno 1,42% oggi, anzi meno 1,80% scusami. Sì, è molto nervosa in queste settimane perché ci sono alcuni giorni in cui si scommette su una possibile ripresa a partire del 2014 dopo i due profit warning che avevano fatto precipitare il titolo negli ultimi mesi, l'ultimo solo a metà giugno, e dei giorni in cui invece il titolo cede. Oggi è stato uno di quelli in cui il titolo ha perso, è tornato a perdere in modo abbastanza importante, meno 1,81%, proprio perché c'è preoccupazione sulla solidità del gruppo, sulla sua capacità di raccogliere nuovi contratti, e per cui oggi gli operatori hanno preferito vendere. E di nuovo in calo anche oggi dopo il tonfo di ieri, sospesa per eccesso di ribasso, dopo dei conti che sono peggiorati, raddoppiato la perdita, ST Microelectronics, conti del secondo trimestre chiaramente. Sì, ancora una giornata negativa per ST Microelectronics, che non ha approfittato del buon andamento del comparto tecnologico dopo i risultati sopra le attese di Apple, e per cui anche oggi è stata un'altra giornata negativa, anche alcune bocciature da parte delle banche d'affari hanno pesato dopo i conti deludenti. Ancora invece chiudiamo con Fiat, perché Fiat oggi si è mossa bene, anche Exor, più 2% Exor, più 2% Fiat. Vorrei citare però a questo punto anche altri titoli di carattere industriale, mi riferisco a Eni più 1,90%, Enel più 1,80%, Telecom più 1,60%, scusatemi, Prysmian, l'ex Pirelli Cavi più 1,60% anch'essa, e bene anche Campari più 1,20%. Fiat. Sì, per quello che riguarda Fiat, ieri Marchionne ha aperto all'individuazione dell'Olanda come nuova sede legale per il gruppo Fiat Chrysler, un po' come è già stato fatto per CNH, quindi per le macchine agricole, e questo ha spinto un po' il titolo, che ha poi consolidato i guadagni nel corso della giornata dopo che sono usciti i conti Ford con utili sopra le attese e un rialzo delle prospettive sul 2013. Ancora sui titoli vorrei ricordare anche come si è mossa, me lo chiedete voi, comunque ve lo do, Snam meno 1,41%, Autogrill meno 1,40%, Ansaldo meno 0,80%. Grazie comunque Guido Marino, Radio Colli sulle 24 ore. Alle 18:06 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, dopo esserci occupati di Fondiaria SAE, dello sviluppo delle inchieste, degli interrogatori, ma anche della borsa, e torneremo sulle dichiarazioni invece del Premier Letta in tema di evasione, ma anche e soprattutto sull'ostruzionismo parlamentare per quello che riguarda il DL cosiddetto fare. Però, perché ci sono anche novità su questo, ripeto, il tetto sui manager pubblici sembra saltato, il tetto ai compensi, non riusciamo a trovare altre novità, però insomma, sostanzialmente nel decreto del fare il governo in commissione aveva inserito una norma per allargare anche a Poste, Ferrovie, ANAS e altre società partecipate il tetto ai compensi dei top manager introdotto dal governo Monti, il quale aveva stabilito che i capi azienda di società controllate dallo Stato non avrebbero potuto guadagnare più di quanto guadagna il primo presidente della Corte di Cassazione, che sono 300.000 euro lordi l'anno. Restavano fuori altri stipendi, ripeto, quello di Massimo Sarmi, 1,5 milioni di euro per guidare le Poste Italiane, gli 800.000 passa euro di Mauro Moretti, amministratore delegato alle Ferrovie dello Stato, e poi ANAS, RAI e altre partecipate dallo Stato. Nel passaggio dalla commissione all'aula è comparso un non, per cui sostanzialmente il limite non si applica anche alle società che non svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica, praticamente società irrilevanti a questo punto. E poi il tema del finanziamento pubblico ai partiti, tema sollevato, e glielo riconosciamo, dal collega del Corriere della Sera, Sergio Rizzo. Sergio, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, vabbè, poi arriveremo, saluto e ringrazio anche, ci sta, per raggiungere il collegamento anche Giacomo Vaciago, con cui parleremo più della parte, diciamo, di politica economica del decreto. Ma allora, io non sto più capendo, perché ieri Letta ha detto su Twitter nessun passo indietro sullo stop al finanziamento ai partiti, e a questo punto però, perché insomma, negli ultimi anni i partiti italiani hanno ricevuto 291 milioni nel 2008, 290 nel 2010, 180 nel 2011, 91 nel 2012, e in Germania siamo in tutto a 133 milioni, in Spagna a 130. Allora, c'è o non c'è sto finanziamento ai partiti, Sergio? Finanziamento ai partiti, finché non fanno una legge, c'è. Finché non cambiano il provvedimento che è stato approvato a luglio dell'anno scorso, e quello rimane, e non sono 91 milioni, attenzione, 91 sono i rimborsi elettorali, poi sì, ci sono tante altre cose, che, quindi alla fine andiamo ben oltre il doppio di quella cifra lì, quindi, ma qui il punto è la serietà, no? Cioè, bravo. Adesso io penso una cosa, credo che cioè, chi si è studiato bene le cose come Ignazzi e Pizzimenti, no? Hanno chiarito che in Europa non c'è nessun paese dove non ci sia il finanziamento pubblico dei partiti, no? Tranne la Svizzera è l'unico, e ci sarà una ragione, no? Cioè, se i governi di tutta Europa finanziano la politica, un motivo ci deve essere, no? Però deve essere fatto in modo serio, no? Non come abbiamo fatto noi. Adesso, per esempio, questa legge, io francamente ho qualche perplessità, perché anche nelle parole, no? Si dice che viene abolito il finanziamento pubblico dei partiti, però nel momento in cui si stabiliscono degli incentivi fiscali così imponenti per le donazioni private, ma quello è una forma di finanziamento pubblico indiretto, anziché diretto, ma sempre soldi dei contribuenti sono, no? Non è che la sostanza poi è così diversa, l'apparenza è diversa, ma la sostanza cambia poco. Cioè, sarebbe stato molto più coerente se si fosse fatto una cosa, insomma, se avessero ragionato su come, diciamo, fare un finanziamento pubblico, diciamo, serio, naturalmente molto ridimensionato rispetto alle cifre assurde, pazzesche, con dei meccanismi disincentivanti, per esempio, non incentivanti al contrario, ma disincentivanti, per coloro che non, per quei partiti che non rispettassero delle norme di trasparenza, di accountability, di anche di democrazia interna. Cioè, doveva essere una cosa molto più semplice e molto più chiara. Invece in questo modo qua, diciamo la verità, ci si capisce molto poco, e soprattutto quello che sembra di vedere è un tentativo, no, da parte di tutti quanti i partiti di limitare i danni, perché sì, oggettivamente. No, però tu hai ragione in una cosa, bisogna stare molto attenti, perché qui il rischio di scivolare nella demagogia, nel populismo, è altissimo. Allora, in tutta Europa, appunto, tranne la Svizzera, vi è un finanziamento ai partiti. Allora, qui forse era più serio dire: signori, facciamo come nel resto d'Europa, con le cifre però che ha il resto d'Europa, non le cifre italiane. Sì. In Gran Bretagna i partiti ricevono contributi fissi fino a 2,3 milioni, ma ripeto, in Spagna si spendono complessivamente 130 milioni, noi andiamo a cifre 2, 3, 4 volte superiori, quindi questo è il problema. Forse era più serio dire: i partiti vanno finanziati, perché sennò la politica la fa solo chi ha i soldi, però in modo coerente, realistico e non. Ma sì, ma soprattutto sulla base delle pezze d'appoggio, no? Esatto. Allora, io ti pago le spese elettorali, va benissimo. Guardate che anche negli Stati Uniti, perché si dice tanto negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti, quando ci sono le elezioni federali del presidente degli Stati Uniti, il governo federale caccia 200 milioni di dollari per contribuire alle campagne elettorali, quindi non è vero che, cioè, in tutto il mondo in realtà il pubblico finanzia la politica, perché la politica, diciamo, nel mondo occidentale è l'essenza della democrazia, i partiti sono interpretano questa rappresentanza popolare, e quindi è giusto che a un certo punto ci sia questo sostegno da parte pubblico, no, non è scandaloso in sé, no? La cosa scandalosa è come in Italia è stato interpretato come se ne è abusato di questo finanziamento pubblico. Questo è il vero punto. Ecco, scusami Sergio, da te vorrei però anche un'analisi politica, perché insomma quella di quello che sta capitando sui manager della società, i manager pubblici, perché insomma io dico una cosa: il combinato disposto tra il rinvio della legge sul finanziamento dei partiti, la riforma sul finanziamento dei partiti, e il rinvio del tetto ai compensi per i manager della pubblica amministrazione può dare un'immagine, diciamo, non così edificante, forse, no? Sulla tua famosa casta. Io penso una cosa: io penso che i tetti alle retribuzioni sono sempre stupidi, perché il tetto porta con sé un paradosso, no? Se io dico che un amministratore pubblico non può guadagnare più di 300.000 euro, sì, so già dove vuoi arrivare. Io, diciamo, intanto deresponsabilizzo l'amministrazione, no? E soprattutto consento che tutti quelli che guadagnano di meno possano poi aspirare. Sì, c'è anche un altro pericolo, che tu faccia la selezione inversa, cioè i quelli che vogliono guadagnare di più vanno nel privato e tu come pubblico raccogli, diciamo, chi vale. Diciamo. C'è anche questo aspetto. Attenzione però, che questa considerazione poi ha portato degli stipendi assurdi. Quindi secondo me il problema vero è che ci vorrebbe anche qui della serietà, perché il tetto è molto facile, il tetto deresponsabilizza tutti, no? Perché c'è il tetto, io più di quello non ti posso dare, no? Invece no, bisognerebbe che ci fosse un effettivo, diciamo, meccanismo di valutazione dei risultati. Mi ricordo che quando ci fu la polemica sui manager, sulle esecuzioni dei manager pubblici, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, scrisse, ora non mi ricordo più su quale giornale, confesso la memoria con farmi difetto, ma insomma lui scrisse una lettera in cui disse: io non voglio una lira di stipendio, voglio essere pagato soltanto sulla base dei risultati, no? Che, diciamo, se vogliamo, una cosa un po' estremistica per l'Italia, no? Però ha un senso, ma questo però presuppone, come dire, una intelligenza e una capacità delle amministrazioni di essere responsabili e di riuscire a valutare i risultati di un'azione manageriale, no? È chiaro che se tu vai a fare l'amministratore delegato alle ferrovie, così come abbiamo già visto in passato, e mi chiudi il bilancio con 1,6 miliardi di perdite, voglio dire, ma io. Non è il caso di Moretti, tu ti riferisci a Catania forse. Esatto, dico, a Catania, io certo. Non ti posso concedere una buonuscita milionaria, no? In quel caso lì, è evidente questo. Quindi. Il tetto porta con sé sempre degli scompensi strani, quindi che poi in Italia abbiamo già visto come compaiono e scompaiono, no? queste misure, perché il famoso tetto di 300.000 euro per i manager pubblici fu inserito con un emendamento della Lega, se non ricordo male, no? Mentre nel governo si stava traccheggiando, perché avevano già stabilito quello per i dirigenti pubblici, ma quello per i manager delle aziende non l'avevano fissato, perché avrebbero dovuto fare una cosa per fasce. Non so se ricordate com'era lo schema. Sì, certo. A un certo punto salta fuori questo emendamento dei leghista, che, capito, nel marasma del Parlamento, con questa ondata, no, di sanfedismo, immediatamente passa, dopodiché però subito dopo viene smontato, perché poi sì, è questo il problema, questo, cose, no? Infatti molti ascoltatori sono arrabbiati, mi stanno scrivendo, perché dicono: ma ci fu un referendum sul finanziamento pubblico, ce l'avete fatto rientrare come rimborso elettorale, però non è neanche così, non è nemmeno così, e no. Comunque ripeto, attenzione alla demagogia, perché in tutte le democrazie occidentali i partiti e la politica vengono finanziati. Il problema non è passare da 1000 a 0, il problema è fare come fanno il resto d'Europa e avere delle spese, dei rimborsi coerenti, non che permettano, non parliamo poi dei consigli regionali, quello che abbiamo visto, di fare quello che tu vuoi, cioè, ma che siano coerenti con l'attività politica e l'attività di campagna elettorale messa in piedi. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento adesso, sì, anche Giacomo Vaciago, che insegna economia e finanza alla Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Sì, è vero quello che scrive un ascoltatore: il Movimento 5 Stelle ha rinunciato al finanziamento pubblico, dimezzato l'indennità parlamentare, la parte eccedente dei rimborsi spese. L'abbiamo detto nei GR, vale la pena ricordarlo. Ma insomma, professor Vaciago, qui insomma salta il tetto ai compensi dei manager pubblici. Sul finanziamento ai partiti la legge ancora non c'è, anche se lei ti ha detto nessun passo indietro, il DL Fare è passato, anche se andranno avanti fino a notte tarda con tutto l'ostruzionismo parlamentare. È l'ultimo atto del governo prima dell'estate, mettiamola così? Temo di sì, temo che ci si stia veramente frantumando in un'infinità di tante piccole cose. Il fare mi ricorda appunto l'idea che la politica serva a risolvere i problemi e non solo a parlarne, è un'idea che da anni ho ma inascoltato. In realtà noi stiamo sempre cercando di aggiustare troppe poche cose e non di guardare le cose più grosse. Se guardo le priorità di questi mesi, continuano a cambiare ogni settimana. Dovevamo correre per pagare finalmente gli arretrati della PA. Avessimo deciso che tutto il governo si occupava di quello e solo di quello, lasciando perdere il Kazakistan e tanto altro, forse ce l'avremmo fatta. Cioè, questo paese non può permettersi, nello stato di difficoltà strutturali in cui si trova, di avere più di una priorità al mese. L'ennesima versione, tutti gli emendamenti che stanno arrivando alla Camera in parte accolte, sono tutta un'infinità di cose che poi tu passi le settimane a leggerti la Gazzetta Ufficiale per capire, una legislazione che non sta mai ferma, tutti gli adempimenti, citavo i pagamenti degli arretrati, abbiamo aggiunto adempimenti a una macchina burocratica già lenta, già inefficiente, e quindi stiamo di fatto, per accelerare alcuni pagamenti, ritardando tutti gli altri. Il totale del debito della PA, lo scopriremo fra qualche mese, è nel frattempo cresciuto, perché se il tubo ha una certa dimensione, più di tanta acqua non passa, se tu continui a sovraccaricarlo di adempimenti, la macchina funziona sempre meno efficiente. Mi spiace, perché io avevo simpatia sia per questo governo, finalmente un governo di larghe intese, se le intese ci sono, però, perché se poi non ci sono è solo un governo largo e non di larghe intese. Mi piaceva l'idea di un primo ministro giovane e non sceso dal cielo, ma salito dalla terra, come il precedente, e un senso di praticità che gli viene dall'essere toscano e non troppo ideologico. Però temo che la frantumazione del sistema politico finisca col contagiare anche la buona volontà di un Enrico Letta. Allora, con toni più pacati, probabilmente, ma lei sta dicendo la stessa cosa che ci ha detto la settimana scorsa, bellissimo, devo dire, anche l'intervento del suo collega Piga venerdì scorso a questi microfoni, dicendo: ma insomma, qui noi stiamo parlando di piccole cose, forse l'Europa, forse, ma la situazione è così drammatica che non capiamo come mai la politica non si renda conto, il governo, dell'unica priorità che ha questo paese, cioè andare in Europa, far ripartire l'economia. Non riusciamo a fare a piccole botte. Il decreto Fare ha delle cose anche molto importanti, 5 miliardi di euro per sostenere le imprese che vogliono investire in macchinari, 3 miliardi per le opere pubbliche e quant'altro, però insomma il messaggio di fondo è: attenzione, se qui non partiamo con un massiccio piano di investimenti. Noi abbiamo dei numeri, professor Vaciago, che lei conosce molto bene, nel 2012-2013, che ricordano quelli del 2009, cioè la prima ondata della crisi, solo che ci arriviamo sfiniti da 3 anni di crisi. Non è come nel 2009 in cui, o 2008, arrivavamo da 10 anni di crescita continua, per cui qualche lira in tasca ce l'avevamo, no? Allora, perché secondo lei la sensazione vostra è che non si capisca la reale priorità, cioè non si capisca che non è tutto finito perché lo spread sta a 300 punti, che non sono nemmeno pochi? Ma perché secondo me la diagnosi che pure Enrico Letta negli anni scorsi aveva, io ricordo un lavoro che ho scritto in un volume da lui curato anni fa, la crisi prima della crisi, riguardava la marcata crescita dell'Italia negli anni 2000. Allora, il problema oggi, ha perfettamente ragione anche l'amico Piga, il problema oggi è che noi abbiamo perso un quarto di prodotto potenziale, e di questo 25%, parlo di produzione industriale, che poi è la locomotiva del treno, non illudiamoci che l'Italia sia un paese di lingua inglese e dotato di finanza globale come Londra o New York. L'Italia da sempre è un paese che cresce se la manifattura va bene e esportiamo. Già nel Rinascimento era così, figurati adesso. Allora, tornando al tema, la produzione industriale è meno 25 rispetto all'ultimo massimo. La ripresa dei prossimi anni, se non facciamo niente, è dell'ordine del 4-5% in 5 anni. Il che vuol dire che il paese ha fatto una cura dimagrante, che quei 3 milioni di giovani disoccupati, prima se ne vanno meglio è, non hanno speranza. Questo dovrebbe dare l'idea dell'emergenza, ma peggio, è stato un terremoto, non è stata una recessione. Il paese va ricostruito, ci rimbocchiamo le maniche e ritroviamo il clima degli anni 50. Mutatis mutandis, non sto dicendo che dobbiamo tornare a un governo democristiano, sto dicendo che dobbiamo tornare questa me l'ha alzata, già ci siamo. A un senso di unità nazionale sulle tre priorità. Quando leggo un decreto di 10 pagine dico vabbè, nessuno arriverà alla fine, perché nel frattempo la sua azienda ha chiuso. E questo è drammatico, attenzione, certo. La ripresa nel 2014-2015 è prevista da tutti e stiamo parlando di uno 0,5 di PIL all'anno, rispetto al meno 2 di quest'anno, cioè vuol dire che ci vorranno 4 anni per recuperare il 2013, certo. La situazione peggiora, nella più ottimistica delle ipotesi, le previsioni ottimistiche che danno per un arrivo di ripresa già a fine 2013, dicono che se va tutto bene, l'anno facciamo prossimo 0,7. I nuovi disoccupati sono solo 100.000. Allora, dire questo significa dire, ragazzi, ci rimbocchiamo le maniche e ricostruiamo un paese. Allora, tutte le cose vanno dobbiamo benissimo, chiudere. Lo sconto del 30% se pago la multa entro 5 giorni, riduco lo 0,15 con il decreto salvi Italia, io poi mi perdo, io mi domando quanta gente ha il tempo per seguire pagine e pagine di gazzetta. No, allora ho capito bene, lei dice tutto bene, però qui mancano le misure forti, non riesco a farvi riascoltare Albanese, vi prometto però che Albanese vuole fare sentire una chicca, professore, su certe funzioni interne alle aziende, l'ispirazione è venuta con Fondiere Assai, in cui nessuno sapeva cosa stava firmando, nessuno è responsabile del buco di Fondiere Assai. Ringrazio Giacomo Vaciago, vi prometto che a settembre chiederò a Antonio Albanese di venire qua in diretta e farcela in diretta l'analista delle gestioni integrate. Domani se butta così lo rifacciamo sentire, perché un po' d'allegria ci vuole. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.